Bene, molto bene. Ecco, no, infatti l'avevo postato su Facebook. Da oggi Coxo Spaziale cambia orario da questa stagione dalle 20 alle 21. Che è adesso. Senti, ma Marco Roma ce l'abbiamo questa settimana? Sì, ce l'ho, però non mi ricordo più come farlo partire. Devo premere qua il pulsantino. Finalmente c'è scritto. Il pulsantino tablet. Vai, anche il 2 settembre. Vai, clicca play. Buongiorno a te che ti svegli pensando a questo giorno. È sempre un giorno così giorno. E vedrai che arriverà la libertà. Buongiorno da Marco Roma. Sti caffi. Scusate, pensavo di essere offline, mentre invece Mia mi aveva già alzato. Voi dovete sapere che Marco Roma è Marco Roma, che tutti i giorni manda un vocale al WhatsApp della radio, che è 333 180 94 94, per cui se volete mandare un vocale, un messaggio, potete farlo, o se volete chiedere a qualcosa a chi è di scena a Cron. Ma Massimo, dimmi tu, raccontaci chi è di scena a Cron, cioè chi è di scena a Cron. Difficilissimo. Allora, chi è di scena è una compagnia di attori e registi tutti diplomati alla Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone, che si è formata nel 98 e che adesso avrebbe la finalità di essere una casa di passaggio per i neodiplomati alla Scuola di Teatro di Bologna o ad altre scuole di teatro o di circo, perché si chiama Cron. Wow. Perché all'epoca la Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone aveva anche la prima scuola nazionale di Nuovo Cirque. Ma dai. E alcuni di noi si sono diplomati anche alla scuola di Nuovo Cirque. Quindi avrebbe. Senti, ma come si scrive a Cron? ACRO con accento circonflesso. Cioè tutto attaccato? Sì. E che cosa vuol dire? Scusa l'ignoranza. È un acronimo. Acrobatica, in sintesi. Okay. Ma sembra anche acronimo, l'inizio di acronimo. Ok, allora lo posso postare. No, non volevo fare la figura del deficiente e sbagliare la scritta. E niente, avrebbe la finalità di essere una casa di passaggio per i neodiplomati, per le nuove creazioni finalmente da professionisti. Certo. E consentire di lavorare su vari linguaggi, diciamo. Certo. E soprattutto su spazi non più linguaggi comunque performativi. Più linguaggi performativi, perché esatto. Io di performativo non mi piace. No, molto, ok, però, ok, sì, ok, insomma, ok. Una molteplicità dove di linguaggi tra circo, parola, musica, canto. Certo, insomma, certo, dove diciamo l'attore è anche il mezzo, no? Esatto. Esatto. In questo senso prendevo in prestito la parola performance, perché di acrobati o di circo conosco poco e quindi sono ancora più interessata ad ascoltare quello che ci raccontate stasera. Ma sì, diciamo che riferisco un po' a questo termine quando il corpo diventa lo spazio primario e anche lo strumento primario per l'espressione, la narrazione, il dialogo, l'incontro, esatto, eccetera. Sì. Proprio questo. E spazio anche, come dicevi, casa, struttura. In realtà adesso che dicendo non ha uno spazio, per okay. Cui proviamo dove capita. No, casa nel senso la possibilità di creare, di allestire degli spettacoli appena usciti da una scuola non sempre è semplice. Certo. Quindi un appoggio, un aiuto burocratico. Certo. Ma soprattutto vedere come in autonomia iniziano a mettere in pratica le cose che hanno appreso durante un percorso professionale. Certo. Adesso certo. È sempre una cosa serissima, in realtà facciamo cose molto divertenti e parliamo di chi è di scena en passant, perché in realtà il nostro tema è un altro, però anche per questa rassegna di cui vi parleremo dopo ci siamo incontrati il 29 agosto, okay. E con una full immersion di 4 giorni hanno creato interamente uno spettacolo molto wow. Complesso sia di acrobatic che di parola sulla biografia di Tolstoi. Ma che bello! Si può vedere che sia già andato in scena, quindi no. Non lo vedrete mai più. Una replica, una piccola replica. Una piccola, dopo ti facciamo fuori in giardino. Una ecco, esatto. Come esatto. In giardino, ce lo fate qua davanti in diretta. Che tu devi sapere che Coxo Spaziale ha la capacità di andare indietro nel tempo. Ah, fantastico, è un piccolo spazio temporale in cui si varca. Io ho una domanda indiscreta, ma perché Cristina non è venuta? diciamolo in diretta. Sta seguendo la rassegna su. Ah, certo. Perché la rassegna è iniziata il 2 e finisce il 10. Sì, sempre. Tutte le sere. Sì, sì, tutte le per sere. Cui è una buona scusa, in effetti, sì, quella di non venire. Perché in effetti questo è responsabile degli spazi che sono complicati, perché è un'abbazia medievale. Quindi, insomma, il comune di Monte San Pietro ci dà le chiavi, ma bisogna essere molto vigili e presenti quando le altre compagnie provano. Certo, ci sta. E di questa, diciamo. Tu questa sera cosa ci siamo persi? Aspetta che vado a vedere il programma. Stasera non c'è spettacolo, ma ci sono le prove dello spettacolo a cui si potrà assistere giovedì sera. Ok, allora già è una scusa meno buona quella di non essere. Ma purtroppo bisogna essere presenti. Qualcuno deve tenere aperta la chiesa. Esatto. Non c'era una perpetua che ci poteva aiutare. Però allora salutiamo anche Cristina. Anche perché la chiesa è sconsacrata, credo. Okay. Salutiamo Cristina e le diciamo di mandarci un piccolo vocale al WhatsApp, no? Esatto. Sì, sicuramente lo farà. Sicuramente ci sta ascoltando e già lo sta facendo. Infatti. Ma di quello che invece avete appena fatto, c'è qualche traccia online che si può guardare in qualche modo? Ci sarà da domani. Ci sarà da domani. Perché lo stanno facendo qua. Perché loro non lo so. Io se fossi noi, tipo, lo farei fare adesso. No, metterei una canzone, poi dopo, intanto che loro si preparano, dai. E dopo finita la canzone possono partire. Perfetto. Benissimo. Grande. Allora metto Little Green. Dai. La canzone Pending. Ok. Thought that I'd be traveling, I thought I'd see my friends. The universe had other plans to keep me in my pen. Solitude is bliss, they say. Not every hour, every day. The cars don't drive around no more. The boats rust in St. Kilda Port. So we'll put our plans on hold as the world turns dark and cold. As winter turns to spring, our twenties will be pending. I'll wait like a bird on a broken branch, I'll perch, just singing about this broken world. Da da da. Busy as we were, the universe tells me to lean in as I talk to her. She says we were running around like headless chickens on the ground. Now it's time to smell the rose, the one we planted years ago. So we'll put our plans on hold as the world turns dark and cold. As winter turns to spring, our twenties will be pending. I'll wait like a bird on a broken branch, I'll perch, just singing about this broken. This too shall pass, or the sun will come around. Eccoci. Eccoci, allora lo spettacolo si intitolava Della memoria, in realtà il titolo sarebbe, qui abbiamo l'interprete. Nel titolo Opamiti. Lingua madre, okay. E avrebbe la finalità di reintegrare la cultura russa, che ultimamente è stata un po' bandita, diciamo. E all'interno dello spettacolo abbiamo messo anche delle canzoni ucraine, quindi cercando di riunire i due popoli che attualmente sono divisi. Comunque la finalità è quella di far conoscere qualcosa della vita di Tolstoj, che ha scritto cose spettacolari, certo, che non si conoscevano, perlomeno che la gente comune non sa. Quindi adesso vi facciamo sentire alcuni passaggi, perché la pretesa è che sia una sorta di documentario teatrale acrobatico. Ci teniamo in mente. È musicale. È musicale. Bellissimo. Prego. La vita di Lev Tolstoj, padre fondatore della letteratura e del romanzo russi, come potrebbe essere Manzoni per l'Italia, fu lunga e tragica, dominata da un'incessante e tormentosa evoluzione interiore. Lottò con se stesso e con il mondo, e questa lotta, talora impetuosa, alimentò senza sosta l'impulso creativo, con accenti e stili diversi, spesso contraddittori, ma dando vita sempre a opere intense e mai minori, in cui metteva tutto se stesso. Tolstoj stesso scrisse della sua vita che poteva essere divisa in quattro periodi fondamentali. Quel primo tempo, poetico, meraviglioso, innocente, radioso, dell'infanzia, fino ai 14 anni. Poi quei 20 anni orribili di grossolana depravazione, al servizio dell'orgoglio, della vanità e soprattutto del vizio. Il terzo periodo va dal matrimonio fino alla mia rinascita spirituale. 18 anni in cui ho condotto una vita familiare onesta e regolata, senza cedere a nessuno dei vizi che l'opinione pubblica condanna. Tutti i miei interessi erano però limitati dalle preoccupazioni egoistiche per la mia famiglia, il benessere, il successo letterario e tutte le soddisfazioni personali. Infine, il quarto periodo è quello che sto vivendo adesso, della mia rigenerazione morale. Lo scrittore viaggia per l'Europa, dove ha modo di conoscere Proudhon, Herzen e Dickens. Ovunque a sconvolgerlo sono gli abusi del potere, la miseria dei poveri e la pena di morte, contro la quale, dopo aver assistito a una condanna, prende posizione. Ho visto a Parigi decapitare un uomo con la ghigliottina in presenza di migliaia di spettatori. Sapevo che si trattava di un pericoloso malfattore. Conoscevo tutti i ragionamenti che gli uomini hanno messo per iscritto nel corso di tanti secoli per giustificare punizioni di questo genere. Sapevo che tutto veniva compiuto consapevolmente, razionalmente. Ma nel momento in cui la testa e il corpo si separarono e caddero, compresi, e non con la mente, che per quanto grande possa essere il numero delle persone riunite per decidere una tale soluzione, e qualsiasi nome esse si diano, resta un assassinio. Seguiranno accesi saggi e articoli in cui si batterà socialmente. Contro la caccia, 1895. Sui diritti degli animali, 1896. Sul vegetarianismo, 1897. Lettera agli italiani, contro la guerra italo-abissina. Lettera agli svedesi, contro la leva. Che cos'è l'arte? In cui affida all'arte il compito di diffondere tra il popolo l'etica dei diritti uguali per tutti. Contro la guerra russo-giapponese, 1904. Ma proprio suo figlio Andrei, 26enne, si arruolerà come volontario per combattere al fronte. Sull'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina all'Austria, 1908. Davanti alla rivoluzione russa, 1905. Lettera a un indù, che viene apprezzata e diffusa da Gandhi. Appelli alla Duma di Stato, 1908. Per convincere il governo ad abolire la proprietà privata della terra, per scongiurare una grande rivoluzione che egli reputa imminente. Al popolo lavoratore, 1902. In cui esorta la liberazione della terra con la non violenza, tramite il boicottaggio dei contadini a lavorare la terra altrui e la disobbedienza dei soldati nel reprimere le occupazioni. Tolstoj profonde le sue ultime energie, come una voce che grida nel deserto, per trovare soluzioni di pace ad un mondo che scivola inesorabilmente verso l'abisso del conflitto globale. Nel luglio del 1902 riceve un invito al congresso della pace a Stoccolma e inizia a preparare una conferenza. Ma la moglie si oppone alla sua partenza, minacciando, come altre volte, il suicidio e costringendo Tolstoj a restare a casa. Nacque anche il movimento col suo nome, la corrente del tolstoismo, i cui seguaci saranno violentemente perseguitati sotto il regime comunista. È questa la goccia che fa traboccare il vaso. E nel 1901 il Santo Sinodo scomunica Tolstoj, chiedendo di rinchiuderlo con la forza in un monastero. Ma ormai lo scrittore aveva raggiunto una fama enorme e le persecuzioni non facevano che aumentarne la popolarità, tanto che la sua eliminazione fisica era ritenuta imprudente dagli stessi vertici politici. Che qualcuno provi solo a toccare Tolstoj, il mondo intero urlerà e la nostra amministrazione sarà costretta ad abbassare la testa. I quali si rendevano conto che in tal modo lo avrebbero reso un martire, scatenando grandi rivolgimenti sociali. E difatti furono organizzati cortei di solidarietà in favore di Tolstoj, la sua casa fu circondata da una folla osannante e non fu possibile internarlo. Ecco qua. E nel frattempo capriole, salti, esatto, canti. In mezzo a tutto questo, maschere. E com'è andata? Ma bene, la rassegna è molto interessante a mio avviso, vi invitiamo tutti a vederla, dopo vi diremo nello specifico le date e come arrivarci. Purtroppo si trova fuori Bologna, sui colli. Beh, e quindi meglio, se la giornata carino. Non è splendida, la gente ci mette un po' ad arrivare. Non è facilissima da trovare, però la location è veramente bellissima. In più noi offriamo a tutti l'aperitivo e gli spettacoli sono gratuiti. Wow. Tra l'altro ci sono stato in quella chiesa a Monte San Pietro. Ho visto certo, Monte San Pietro è a sud, è dopo verso, dopo Calderino, sì. Giusto? Sì, sì, è oltre, sì, oltre. Sì. Sì, ci sono stata con si chiama Badia. Esatto, Badia. A sentire il coro Consonanze, che erano tipo una quarantina e sono venuti qua una volta. Wow. Anche loro tutti insieme. Hanno cantato nella stanza di fianco e avevamo allungato il microfono perché non ci stavano. Vabbè, che figata. Infatti. Bellissimo, bellissimo. Poi sì. L'abbazia è molto bella. Sì, molto bella. Cioè, infatti, freschi, sì. Molto bella. Una bella acustica. Una bella acustica. E anche tu hai una bella voce. Grazie. Grande. E dunque da tanto che lavorate insieme? No, assolutamente. Ah. Come vi dicevo prima, loro si sono diplomati a giugno, a fine giugno. Ah, ok. Quindi sono subito vi siete trovati, stati certo. presi stati perché catapultati. Hanno concluso l'anno di diploma con delle loro creazioni, alcune a mio avviso erano perfette per questa per questo tema, quindi ho chiesto se volevano collaborare, certo. Erano solo disponibili i primi giorni di settembre, ho detto ma sì dai ce la faremo. No, vabbè, bellissimo. Quindi mi sono dedicato al testo, loro a ciò che il testo ispirava. Siamo andati di acrobatica. E per quanto riguarda la preparazione fisica, cioè se una persona non è, cioè deve essere, come si allena un acrobata? Ma allora 50 flessioni ogni mattina. Scusami se ti parlo sopra perché ti sento pianissimo. Non figurati. No. Ma non ti sento proprio. Non ti preoccupare. Forse se vuoi metterti la cuffia, forse così meglio, vero? Ok, okay sì. Perfetto. Sì, sì, sì. No, volevo dire la preparazione di un acrobata sono 50 flessioni e bacon and eggs ogni mattina per riuscire a fare capriole parlando. Qual è il segreto? Sono un po' bizzarri anche sull'alimentazione. Quindi quello fanno loro. No, sicuramente per accedere alla scuola c'è bisogno già, ci sono delle audizioni, c'è bisogno di avere già una preparazione, ci sono anche delle prove di movimento nell'audizione. Certo. Quindi cerchiamo cerchiamo perché io stesso insegno all'interno della scuola. Di avere degli allievi il più possibile poliedrici e versatili, perché questa certo. dovrebbe essere la finalità. L'ultimo anno del percorso è proprio un percorso trasversale tra il circo e la prosa, mentre i primi due anni sono incentrati prevalentemente sull'arte drammatica, diciamo. Quindi loro già escono preparatissimi, gli facciamo un mazzo notevolissimo, sono abituati ad essere. Però hanno facce alla fine facce serene, non mi sembrano. Non mi sembrano. Concluso. Sì, okay. Adesso hanno concluso. Mm-hmm. Ma anche perché, ad esempio, io vengo dalla danza contemporanea, Riccardo dal parkour, Eugenio dalla danza contemporanea, no, break dance, e Sara dal karate nulla però poi si è acro yoga insomma wow. integrato wow. e poi bellissimo. A scuola comunque acrobatica aerea sono cose che danza che si sperimentano e quindi se uno già ha una buona base di partenza. Io ad esempio mi sono interessata al circo a scuola. Certo. Ma dunque ci fate la torre dopo il pacchetto, ecco, dopo la trasmissione. È bello anche che vengano da diverse discipline sportive. Infatti. Perché così diciamo che non c'è un'abitudine a un movimento, ma veramente un mix, un incontro. Mm-mm. Tra appunto, la parte più importante a mio avviso è proprio il poter contaminare le varie discipline. Esatto. Che siano non solo anche discipline fisiche, ma certo. anche al di là la comprensione della musica poi porta ha un'espressione diversa anche del corpo conoscendo la musica. Certo. Si hanno coscienze diverse della ritmica, delle sfumature nel complesso di spazio e di suono. Ok, Stefano, puoi venire qua un attimo? Sì, certo. Ti è venuto tipo un no signal nel computer, cosa vuol dire? Ah, che no, niente. Scusate. Devi toccare la tastiera. Ah, ok, niente di che. Niente di mentre che. Mentre stavi dicendo questo, ho cominciato a vedere tipo un no signal, ho detto ok, adesso forse esplode adesso tutto, va bene. Finita, esatto. Però invece niente di, okay, okay. di preoccupante. No, invece Sara, dal karate al teatro, come funziona sta cosa? Ma penso perché di base mi piaceva molto già fin quando ero piccola. Ok. E quindi leggendo tanto e scrivendo tanto era quasi la mia strada. E poi perché l'università di filosofia non mi piaceva. Ah, quindi <okay. ride> sì. Mi sembra Bello. Un'ottima scuola. Come faceva a non piacerti l'università di filosofia? Perché il teatro è la vera filosofia, forse. Bello anche questo. Sì, perché c'è veramente un mixur tra questi due interventi. È come se si apre una prospettiva che il movimento sia il movimento fisico, sia anche un movimento di pensiero, perché la comprensione della musica, la filosofia, il vero teatro, un po' come se le parole disegnassero dei gesti, mi viene da dire, da quello che sto ascoltando. Mentre parlate mi sto veramente immaginando dei movimenti fisici e infatti astratti. A me dispiace tantissimo non poterlo vedere. Dai, no, e anche non farlo, a me è venuta voglia di farlo anche. Io voglio prepararmi per un'audizione così giusto per buttarmi. Secondo me c'è posto. Ma e qualche stories di Instagram non c'è da guardare? No, però secondo me sono state fatte delle riprese, sì, degli spettacoli che ci sono già stati, quindi a breve potrete vederli in qualche modo. Vi farete un'idea almeno. Certo, questa fame di immagini che ci fate venire, perché veramente. Cioè, noi in un programma radio questa voglia di vedere. Di vedere. Bello, che dici? Metto un pezzo. Vai, e metti un pezzo. Dei Talking Heads. Vai. ho messo un piccolo jingle. Cox spaziale. Le scimmie. Eccoci. Però mi sembra che il CD stia saltando, o sbaglio? O è così di default? Sta saltando? Sì, dai, mettilo. Era in realtà faceva parte di un mio tentativo di DJ set, posso dire così? Non è vero, no, però insomma. Tu lo sai, ma i brani vanno avanti così, con la freccina. Ah! Non so perché. Probabilmente non lo so perché un gira CD è da tanto che sì, non. Quando l'hai usato, li usavo. Andavo in giro con quelli, però. Sì, dai. Diciamo che potevo salvarmi. Ma torniamo alla trasmissione. Questo è Coxo Spaziale, intanto, e stiamo parlando. Con Acro, chi è di scena? Acro, ma chi è di scena? Però non me l'hai detto che si scriveva tutto attaccato. Sì. Adesso lo vado a correggere. Ci sentivamo dei gran fighi quando abbiamo inventato questo nome, abbiamo scoperto che ne esistono altre tre, per cui abbiamo aggiunto Acro per distinguerci. Ops, hai capito? Vabbè, ci sta. Perché ci dunque sta. Il festival Sogno di fine estate, che ricordiamolo, è a cura di Daedalus APS. Associazione di promozione sociale. Poi vi metteremo il link perché esatto. Troverete su coxospazzare.blogspot.com tutti i link della trasmissione. Absolutely. Giovedì 8 settembre alle 19:30 cosa succede? Andiamo a vedere. Sì, succede, ci sarà uno spettacolo creato dall'associazione Spazio e Amicizia, che è un esito di un laboratorio di nome Il Calderone. L'associazione è un'organizzazione che dà la possibilità di promuovere vari incontri tra persone, in particolare persone che attraversano momenti difficili nella vita, come la solitudine, difficoltà esistenziali, disturbi psichici, eccetera. E lo spettacolo in laboratorio si basa su ironizzare un po' sull'essere umano. Bello! Esatto, che un po' parla dell'umano come un animale, un bel brutto animale, come infatti il titolo dello spettacolo. Brutto animale? Esatto, bel brutto animale. C'è anche bel brutto animale, ci sta. La regia sarà di Elena Bovina e Elena Nuvolone. Le operatrici teatrali sono di Mariangela Giuria e Elena Santamaria. Ok, stupendo. Beh, ironizzare su queste cose è una delle capacità più difficili ma anche più liberatorie, no? Quando si riesce veramente ad utilizzare l'ironia, che è diversa dal sarcasmo, no? Ma proprio veramente è liberatorio, certo. saper ridere o saper in qualche modo trovare delle vie di fuga dalle situazioni che sembrano vicoli ciechi. A proposito di fuga, oggi non si è visto Fuga per altro. Ma forse non sapeva del nuovo orario. Secondo me no, dobbiamo avvisarlo. Dobbiamo avvisarlo, perché noi abbiamo un ascoltatore che ha questo nome che si chiama Fuga per Art. Non o si Oscar Moroni. Altrimenti chiamato Oscar Moroni, tutti i nomi falsi naturalmente. E di solito lui ironizza su di noi, ci manda gli sms dicendo smettetela di dire stupidaggini. Coxate. Esatto, o cose del genere. E poi invece venerdì 9 settembre alle 19:30 cosa succede? Gli orari sono orari aperitivo, perché davvero c'è l'aperitivo. Sì, vero? In realtà sono gli artisti. Sì, sì, davvero c'è l'aperitivo. Bisogna sono prenotarsi. Sarebbe meglio prenotarsi. Okay. In genere sono gli artisti a decidere se preferiscono l'aperitivo prima dello spettacolo o dopo. Comunque gli spettacoli durano un'ora, un quarto al massimo, quindi certo. Diciamo, per cena siete tutti liberi, però insomma bevendo dei prodotti tipici del territorio, mangiando e bevendo prodotti tipici del territorio. Io giovedì vado. Mi è arrivato mi prenoto. Come ci si prenota? Mi è arrivato un messaggio da Lorenzo Balbi, il direttore del MAMMO, che sta ascoltando. Dice: oggi avete due ascoltatori. Grande. Grazie Lorenzo che sei qui con noi. Grazie. Anzi, bentornato. Ok. Grazie, lo salutiamo e gli diciamo anche a lui di venire giovedì. Ma dove ci si prenota? Come ci si prenota? C'è un numero di telefono o sul sito c'è sul tutto? Sul sito di Daedalus sicuramente. Che però è difficilissimo da trovare, perché bisogna scrivere Daedalus. Ragazzi, se poi scrivete Daedalus senza queste vocali, vi trovate in un sito di consulenza psicosomatica. Psico qualcosa, quindi. Altrimenti anche un numero di telefono 349-416-4283. Fantastico. Ok. Perfetto. Semplice. Che troveremo anche questo su coxospazzale.blogspot.com. Absolutely. E poi c'era un'altra cosa, abbiamo detto, allora giovedì 8. Venerdì 9. Chi lo dice? Venerdì 9 vedremo in scena Luisa Vitali con Pasolineide, fatto dalla loro associazione Rima Cheride. È interessante perché parla di Pierpaolo Pasolini, quindi super attuale in questo periodo, come sempre in tutti i periodi. Però argomento super hot, dici, super attuale, perché tutti... Sì, super attuale, perché sì, sì, è sempre sì. Attuale Pasolini, quindi tra i suoi testi, canzoni, poesie, quello che vedremo in scena infatti saranno un insieme di testi, sue poesie e anche canzoni fatte da Luisa Vitali. Questo è molto interessante perché lei sarà una a fare tutto il pensiero di Pasolini. È bello perché si chiama Pensieri in Libertà. Forse quello di cui noi avremmo anche bisogno, no? In questo periodo. Certo. E magari anche dopo il 25 settembre, forse anche di più. fra l'altro l'associazione Rima Cheride è amica di Radio Città Fujiko. Ah, fantastico. È un'associazione molto attiva. Li salutiamo. Questo, tra l'altro. Sì, sì, sì. Tra vari laboratori, workshop, seminari, in ambiti anche sociali. Interessante. Sì, sì. Ottimo. Super. E sabato? Sabato 10. Sabato 10. Arriviamo alle 19.30 sempre con Italia chiama, Argentina risponde, ed è uno spettacolo fantastico, che è stato diretto da Carlos Branca e Rosanna Pavarini, e musicato da due musicisti, e praticamente è uno spettacolo che è stato modificato nelle scorse settimane. Prima aveva un clima più catastrofico, e invece adesso riguarda direttamente il ponte tra le culture. Quindi si avvicina alla cultura argentina, ispanico-argentina, quindi è molto legata alla musica e alla danza del tango. Wow. Carlos ha lavorato in Italia, è arrivato nel 2006 in Italia, e ha lavorato spesso per opera lirica come regista, e, assieme anche a Luis Bacalov, che è stato vincitore di un Oscar in quanto musicista, che ha lavorato con Tarantino e con Fellini. Invece Rosanna Pavarini ha sempre lavorato nella sensibilizzazione delle disabilità nel teatro sociale. Certo. E ci sarà anche una piccola collaborazione con Paolo Colognesi, che oltre a collaborare per questa rassegna sarà anche in scena. Poi durante tutte le serate in realtà si potranno vedere le fotografie esposte, che sono il frutto di un laboratorio tenuto da Michele Pietrangelo, organizzato dal progetto Itaca Bologna, che è un progetto che si occupa di persone affette da disturbi psichici e offre vari corsi, diciamo che si occupa di riabilitazione, di integrazione in società di chi soffre di disturbi mentali, e in particolare tra i vari corsi che offrono c'è questo corso di fotografia creativa, e quindi si potranno vedere, oltre agli spettacoli, anche le foto che hanno realizzato durante uno dei loro corsi. Esatto. Senti, 19.30, un sacco di proposte gratuite da quanto ho capito, e sì, in un clima super open, super fresco, fra l'altro. Super sì, fresco, super open, super misto, con aperitivo di prodotti locali, voglio dire, fatto la settimana è fatta, giovedì, venerdì, sabato. direi che ti tocca di andare. Giovedì vengo sicuro, ti manderò una foto mentre tu sei in Grecia. la guarderò con... E dunque, invece, cosa ci raccontate dell'associazione Daedalus? Come dicevi tu, l'associazione Daedalus è un'associazione di promozione sociale, si occupa in genere di riabilitazione psichiatrica e di arte orientata alla rappresentazione della propria esistenza. E, da 4 anni si è inventata questa rassegna in collaborazione col Comune di Monte San Pietro, col Dipartimento di Salute Mentale di Bologna e con altre associazioni del terzo settore, che più o meno si occupano di sensibilità psichiatrica, diciamo, certo, se possiamo definirla così, e vorrebbe mettere in scena, vorrebbe parlare di creatività contemporanea, ecco, mette in scena pittura, scultura, fotografia, digital art, musica, teatro, avendo lo spirito appunto di mettere in luce le capacità artistiche di queste persone che hanno superato, stanno ancora vivendo queste difficoltà, certo, oppure coinvolgerle all'interno dell'organizzazione. La rassegna è nata 4 anni fa, la sede per ora è sempre stata quella che dicevamo dell'abbazia di Badia, certo, che è l'abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano presso Monte San Pietro. E, siamo andati in scena, se così si può dire, anche durante il lockdown, perché wow, la seconda edizione è stata, abbiamo deciso di farla comunque, è stata grande, porte chiuse, abbiamo realizzato dei filmati che poi sono andati su internet, certo, e l'anno successivo abbiamo abbinato alle varie serate di spettacolo, quindi era possibile vedere sia lo spettacolo dell'anno precedente sia il successivo, certo. La formula è sempre stata questa fino adesso. Dedalo sta cercando di allargare gli orizzonti, quindi all'inizio erano meno associazioni, soprattutto molto legate al territorio, certo, adesso stanno coinvolgendo anche delle associazioni che lavorano nello stesso frangente, più lontane, molto sensibili e affermate nel territorio, certo, italiano. Ad esempio ieri sono andati in scena Nuovi Linguaggi, che è una compagnia marchigiana, ok, con la regia di Andrea Anconetani, Anime Perse, okay, uno spettacolo su testi di Umberto Piersanti, dei racconti di assassini commessi purtroppo da persone che non stavano bene, certo, in quel momento, e che sono state poi però rinchiuse in quelli che oggi non si possono più chiamare manicomi criminali, certo, quindi non hanno più avuto possibilità di reinserirsi, certo, nella società, o di comprendere cosa avevano, cosa stava succedendo, esatto, cosa era successo, certo. Lo spettacolo è stato molto bello, peccato ci sia già stato, ecco, quindi ci stiamo un po' allargando, sì, ecco, sì, cioè, sì, cioè, adesso c'è anche Carlos Branca, insomma stiamo cercando di allargare un po' gli orizzonti e vedere questo filo rosso che passa attraverso l'Italia, certo, su questa sensibilità del disagio mentale, che poi è quello che produce spesso le forme di arte più profonde, più sensibili, in tutti i campi, appunto, certo, musica, teatro, non noi sono stessi, filtrati, diciamo, sì, esatto, più immediate, meno concettuali, voi più emozionali. Siete dei discreti disagiati, sì, senza ombra di dubbio, ma posso dire chi non lo è, voglio dire, anche semplicemente porsi la domanda del qual è il rapporto tra cultura e salute, o tra forme espressive artistiche e salute, o condurre una trasmissione chiamata Coxo Spaziale, esatto, voglio dire, sono alla fine delle tematiche che possono veramente interessare a tutti, non soltanto chi di disagio mentale ne è non affetto, ma definito in questo modo, dichiaratamente, ma anche chi semplicemente ha voglia di esplorare, no? delle forme possibilità diverse, possibilità lontane dalla normalità. Sì, voglio dire, già pensare che ci sia una normalità è un disagio, secondo esatto, me. Esatto, assolutamente. Cioè, voglio non dire, dubbio, chi pensa che ci sia qualcosa di normale, secondo me è il primo ad essere veramente disagiato, no? Sì, sì. E senti, quindi disagiata, dobbiamo fare l'angolo della menzione, metti il jingolino, voilà. Bravo. E parto così col jingle. Così. Un sacco di canzoni non le abbiamo messe, le mettiamo dopo? Sì. Vado di angolo della menzione. Sì. L'angolo della menzione. Sono stato troppo perentorio, scusami. No, non ti preoccupare. No, anzi, volevo partire con questo. C'è tempo fino a lunedì 5 settembre, che è oggi, per cui entro mezzanotte di oggi, per iscriversi al workshop L'artista per la collettività, a cura di Giacomo Zaganelli, che si realizza con il sostegno di Italian Council in collaborazione col Mambo. Il workshop si svolgerà al Mambo nei giorni 13 e 14 settembre in collaborazione con il Dipartimento Educativo, e si concluderà con un incontro aperto al pubblico il 16 settembre in sala conferenze, e dunque tu la settimana prossima lo dovrai mettere nell'angolo della menzione. Vai. Ta-da-da. Ma, l'ho messo, però non parte perché c'è il silenzio, aspetta. Eccolo, vai. E invece domattina? Domani mattina, martedì 6 settembre alle ore 11, c'è l'inaugurazione della mostra personale di Bruno De Angelis, Frammenti di Sistema 2018-2022. L'autobiografia per immagini a cura di Sandro Malossini, Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 50 a Bologna, e sarà disponibile fino al 27 settembre. Aspetta. pronti? Pronti? Vabbè, questo è migliorabile, la tempistica del gingolino, però stai andando benissimo. Infatti, io non voglio fare le menzioni lunedì prossimo, ragazzi, assolutamente. Come no? Te ne mando un pacco. Certo. Domenica 11 settembre, dopo essere stati giovedì, venerdì giovedì, venerdì e sabato all'abbazia dell'abbadia di Monte San Pietro, bravo che mi ricordo tutto. Alle ore 18 invece nella sala Zarri del Palazzo del Governatore del Comune di Cento inaugura Sopra di noi il futuro. Wow. L'opera del duo Antonello Ghezzi, esito della tappa centese della terza edizione di Prospettive, che è tutto un ambaradane in vari luoghi dell'Emilia Romagna organizzata da Adiacenze. Stupendo, salutiamo Antonello Ghezzi che è stato qua a parlare di una sua bellissima mostra. In realtà è stato qua solo Ghezzi, perché Antonello non c'era. È vero. E devo fare un altro sacchetto? Certo. Aspetta, arrivo. Eccoci. No. No. Perché non parte? Non lo so. Lo faccio io. Dai, su. C'è un'altra menzione? No, basta. Metto un pezzo musicale. Vai. Per togliermi dall'imbarazzo. Fai così. To lead a better life, I need my love to be here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there, running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know. I wander everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes. She's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always. I'll be there and everywhere, here, there and everywhere. Importante, palinsesto, Radio Popolare e altro, fa vedere domenica. Sto leggendo l'email che è arrivato dal nostro direttore, che dice di 18, questo vuol dire che alle 18:55 sarà terminato l'ultimo brano della puntata e partirà la puntata, per cui sì, noi dobbiamo finire d'ora in poi, noi dobbiamo finire alle 55. Quindi, il che significa che abbiamo 5 minuti. Un minuto per salutare la sigla finale. Sì, è vero. Tipo. Cosa volevate dire? Anche, vi diamo i microfoni. Cos'altro volevate dirci? Non volevamo dire nulla, a parte ricordarvi di venire su all'abbazia. Volevamo cantarvi una canzone, ma non so se c'è tempo. No, allora punto. No, scusa, usiamola come sigla canzone finale. Allora. Però dovete cominciare a cantare dopo che il direttore ha detto una frase. Che okay. Ovviamente io prima cioè adesso cerco di metterla, senza metterla. Sì. Poi cioè, voi siete pronti? Partite al volo? Sì, partite. Vediamo quel che succede. Vabbè, se per caso rimane nel bianco, comunque sappiate che se lo state ascoltando registrato, il bianco l'ho tolto. E che io ero Stefano W. Pasquini. E io ero Miglia da Schio su PA. E questo era Coxo Spaziale. Però devi togliere Don't You Want Me, devi spostare. Ah, sì, ok, bene. Eh sì. Ecco, perfetto, già così. Ok. Siete pronti? Sì, questa sì. È... Allora vi salutiamo con questo il direttore che dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che siete voi? Vai. Verba vaya doshechka, doshechka. Shechka.